Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È bene che ci cominciamo ad abituare a una guerra lunga. La SARS, che era molto meno contagiosa, finì verso maggio-giugno. Questa è molto più contagiosa della SARS. Io ho l'impressione che se ci va bene, se in qualche modo lavoriamo tutti insieme, dobbiamo arrivare all'estate. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è il commento di insomma un grande esperto, purtroppo per quanto riguarda malattie infettive e la sanità in generale, che è Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e attuale componente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e consulente, super consulente del governo per l'epidemia di coronavirus. Quindi dice, insomma, naturalmente senza drammatizzare, però è una guerra che si combatterà a lungo e per questo si continua a ripetere tutti i giorni che tutti hanno nel proprio piccolo la responsabilità per se stessi e la responsabilità collettiva. Per questo, se siete a casa ad ascoltare Effetto Notte, siete davvero lì dove dovreste e dovete essere. Mi fa piacere naturalmente a me che lavoro tutto il giorno per raccontarvi poi a fine giornata quello di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, ma a maggior ragione proprio in questo periodo. Dovete sapere tutte le cose importanti e dovete saperle restando a casa, se non, almeno che non ci sia qualcuno in questo momento che sia in turno di lavoro, naturalmente con i protocolli di sicurezza o per qualche altra emergenza particolare. Bene, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre lì per voi comodamente, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349-238-6666. Parleremo. Faremo un po' un punto della politica per quelle che sono le richieste ulteriori a questo giro di vite ieri annunciato da Conte, che vi ho fatto sentire qui in diretta Effetto Notte, e poi anche che cosa sta decidendo finalmente l'Europa, visto che ormai riguarda tutta l'Europa oltre che tutto il mondo questa epidemia. E poi ci collegheremo anche con altri paesi, Macron che ha appena parlato alla Nazione, poi Trump che dice una cosa, poi ne dice un'altra ed è in grossa polemica adesso con l'Europa. Però mentre vi ricordo che il Twitter durante il giorno è aerobico, la Y, Linetta Bassa Giordano. Partiamo con la sintesi della giornata. Coronavirus, oltre 12.000 i malati in Italia, 1.200 i pazienti guariti, 50 medici positivi solo a Bergamo, oltre 2.000 persone denunciate. Il monito di Mattarella, l'Italia attende la solidarietà dell'Unione Europea, non ostacoli. Bruxelles pensa a uno stop al patto di stabilità europeo. Alta tensione nelle fabbriche, i sindacati chiedono un blocco mirato, domani Conte farà una videoconferenza con sindacati e industriali. La reazione dei mercati, borse in Europa travolte dalle vendite, Milano meno 15%, Parigi meno 12%, per Dow Jones peggiore seduta dal 1987. Francia, Macron parla alla Nazione, dice un'emergenza sanitaria più grave negli ultimi 100 anni, scuole chiuse in Francia da lunedì. E poi il monito dell'OMS che dice la pandemia si controlla solo se i paesi non mollano. Polemiche tra Europa e Trump, che chiude ai voli col vecchio continente. Sport, positività nel team McLaren, Formula 1 verso lo stop, e il calcio professionisti, martedì il vertice dell'UEFA. Partiamo quindi dai dati sull'epidemia di coronavirus in Italia, come sempre aggiornati dalla Protezione Civile. Sono 12.839 i malati di coronavirus nel nostro paese, 2.249 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 15.113. Ma sentiamo il commissario all'emergenza, Angelo Borrelli. Oggi registriamo 213 nuovi guariti, che porta il totale dei guariti a 1.258. Per quanto riguarda le persone affette da coronavirus, registriamo un incremento di 2.214 nuovi casi. Attualmente i positivi sono 12.839. Il numero dei deceduti è di 188. Le filiere di sanità e alimentare restano aperte perché sono necessarie il cibo che venga prodotto e distribuito. Questo lo ha detto il ministro Boccia dalla Protezione Civile, così ha detto, come i farmaci e le attrezzature sanitarie, rispondendo alle richieste più pressanti della regione Lombardia e anche dell'opposizione, in particolare Salvini, che chiedono di chiudere tutto. Lui dice: se chiudiamo tutto si spegne la luce, c'è il buio, si spegne il paese. Alcune filiere, ha detto, devono continuare a funzionare, poi torneremo anche su questa polemica. Intanto, per la reazione dei mercati, seduta shock delle borse europee con 825 miliardi bruciati in un solo giorno. Milano ha perso 68 miliardi di capitalizzazione. A Piazza Affari il FTSE MIB chiude a meno 16,9%, il peggior calo di sempre in una sola seduta. I mercati sono delusi dall'iniziativa della Banca Centrale Europea, che ha alzato il quantitative easing, cioè l'acquisto di titoli, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi per il 2020, tagliando la crescita dell'anno a 0,8% e tenendo fermi i tassi. Lo spread ha superato quota 260 per poi rallentare. La Fed, Banca Centrale Americana, inietta 1.500 miliardi di dollari sul mercato, mentre Wall Street affonda con gli investitori che perdono la fiducia in Trump. E anche su questo poi ci torneremo collegandoci con gli Stati Uniti. E poi, a proposito di strumenti della BCE, sono disponibili per l'Italia, ha detto la direttrice della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde. Siamo impegnati contro la frammentazione, in senso finanziario, dell'Eurozona. Ci saremo, non deve esserci alcun dubbio su questo, ha detto Christine Lagarde. E poi è arrivato il monito del Presidente della Repubblica Mattarella. L'Italia, ha detto, attende la solidarietà dell'Unione Europea, non gli ostacoli. E Bruxelles pensa quindi a uno stop al patto di stabilità. Intanto, sempre tornando sull'Italia, alta tensione nelle fabbriche al nord. Una videoconferenza Conte incontrerà domani i sindacati industriali, affronterà il problema dei protocolli di sicurezza nelle fabbriche, dove si registra alta tensione dopo il nuovo decreto del Presidente del Consiglio sul coronavirus, che non obbliga alla chiusura molte attività produttive. Nella provincia di Asti, Vercelli, Cuneo si sono registrati scioperi spontanei in alcune fabbriche con adesioni altissime, fa sapere la FIOM CGL del Piemonte. I sindacati dei meccanici parlano di sciopero necessario senza fermate produttive concordate, e Salvini attacca il governo, dice: gli operai sono discriminati, l'impressione che ci siano lavoratori di serie A e di serie B. E poi le polemiche tra l'Europa e il presidente americano Trump, che ha deciso in modo univoco di fermare i voli con l'Europa. Oggi aveva rassicurato, in realtà, dicendo: noi abbiamo soltanto 32 casi, ce la caviamo bene, però intanto sembra che voglia fermare anche i voli interni agli Stati Uniti. Nel frattempo ha parlato poco fa il presidente francese Macron alla Nazione, ha detto: siamo in un'emergenza sanitaria la più grave negli ultimi 100 anni, e ha deciso di chiudere le scuole in Francia da lunedì. Mentre c'è il monito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice: la pandemia si controlla, ma solo se i paesi non mollano. Tornando sulle questioni italiane, alle 17 di questo pomeriggio sulla 22 del Brennero si sono registrati solo 4 chilometri di coda, è stato riferito da fonti diplomatiche. L'emergenza sembra essere risolta al Brennero. Ieri, causa controlli serrati da parte delle autorità austriache, si era formato un lungo serpentone di tir per una lunghezza di 80 chilometri. Sulla 22 la fila dei tir è ora ridotta a pochi chilometri e via via viene meno il divieto di transito per furgoni e auto diretti verso il Brennero. Sorda per 24 ore agli appelli dell'Italia di mezza Europa, alla fine l'Austria ha deciso di alleggerire i controlli alla frontiera sulle migliaia e migliaia di tir che ogni giorno viaggiano verso il centro Europa. La svolta è arrivata dopo che la situazione si stava facendo drammatica, con gli autisti esasperati e danni incalcolabili all'intero sistema logistico e produttivo. A determinarla la decisione dell'Italia di istituire controlli analoghi nella direzione opposta, quindi in ingresso nel nostro paese, e contemporaneamente l'azione diplomatica avviata dalla ministra dei trasporti De Micheli con la sua omologa austriaca e con il coinvolgimento della commissaria europea ai trasporti Valean. In mattinata, per sbloccare il Brennero, era arrivato l'appello di Confindustria. Tutti gli sforzi che le imprese italiane stanno attuando in queste settimane per non bloccare le economie, è stato scritto in una nota, vengono letteralmente distrutti da pseudo misure di prevenzione strumentali opportunistiche messe in atto dal governo regionale del Tirolo e avallate dal governo federale. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo ai cosiddetti furbetti o irresponsabili in questa emergenza pandemica. Sono 2.162 le persone che sono state denunciate fino ad ora per violazione delle restrizioni disposte dai provvedimenti per l'emergenza coronavirus. Il bilancio è stato pubblicato dal Viminale sul sito del Ministero. Le persone complessivamente controllate in Italia sono state 106.659, mentre le verifiche negli esercizi commerciali sono state 18.994. Non è la serrata di Ferragosto e ancora troppi sembrano non volerlo capire. Così da nord a sud sono scattate le denunce. 15 a Roma, 40 a Bergamo, 30 nel veneziano, ma contestazioni anche in Versilia, nel napoletano e a Milano. C'è chi stava giocando a carte con uno spritz a Favaro, come a San Donà in provincia di Venezia. Chi serviva come se niente fosse il caffè in un bar di Treviso, poi fatto chiudere. O chi stava acquistando liquori per una festa nel Bergamasco, proprio laddove i contagi hanno il picco più alto. C'è chi poi ha spiegato di dover andare a far pace con la fidanzata, chi stava giocando una schedina e chi invece si stava spostando per andare a comprare in un altro comune un pane più buono. Le scuse addotte davanti ai controlli delle forze dell'ordine sono state insomma le più diverse. Tutte hanno portato comunque alle denunce. La più grave per i tre che hanno lasciato la quarantena a Massarosa in provincia di Lucca. Anche se per certi versi somiglia, questa infatti non è la serrata di agosto e multe e denunce servono a ricordarlo agli eventuali furbetti. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è la prima star di Hollywood ad annunciare di essere positivo al coronavirus. Lo risulta Tom Hanks insieme a sua moglie ed è in isolamento in Australia. I viaggi di Radio 24. Scuole innovative che non si sono fatte trovare impreparate dall'emergenza coronavirus. Questa è la quarta puntata che ci porta a Conversano, in provincia di Bari. A proposito di scuola, siamo all'Istituto Professionale De Lilla. Fra i percorsi proposti c'è l'alberghiero, ma nei professionali, lo sappiamo, prevale lo studio in laboratorio. Come si fa quindi a fare didattica laboratoriale a distanza? La dirigente scolastica Margherita Manghisi non si è persa d'animo e sta dimostrando che si può, come spiega a Maria Piera Ceci. Sì, la parte laboratoriale è la parte più complicata, solo con la registrazione è possibile, quindi caricando poi il video su YouTube è possibile per i ragazzi seguire, controvedere come si mette, si può in essere una ricetta, un cocktail, una ricetta, una preparazione di una tavola e poi loro possono, un'apparecchiatura di una tavola, registrare a casa l'esecuzione del compito, non utilizzando naturalmente liquori o cose, ma materie sostitutive, e inviare al video, al professore, caricandolo sulla piattaforma il video che hanno realizzato. Intanto loro sul canale YouTube dell'istituto hanno la possibilità di vedere la registrazione della ricetta che è fatta in maniera tecnica, perché abbiamo un professore particolare e una telecamera che registra l'esecuzione della ricetta, dal materiale alla farina, allo zucchero, le uova, a come si mescola tutto passo passo passo, come se stessero a scuola. Certo, non possiamo controllare poi, non possiamo dare il prodotto finito, questo è difficile. I ragazzi come hanno reagito a questo nuovo metodo di studio? Allora, i primi 2-3 giorni hanno pensato che fosse vacanza, poi hanno cominciato a porsi problemi e devo dire che stanno chiamando, si stanno mettendo in contatto. Poi il fatto di dover registrare loro le ricette che magari fanno a casa, un po' li diverte, utilizzare questi mezzi nuovi li motiva. Bene, e adesso passiamo per chiudere questa prima parte allo sport. In un evento chiuso al pubblico, la fiaccola olimpica per i giochi di Tokyo 2020 è stata accesa questa mattina nell'antica Olimpia. Ma i giochi sono a rischio, anche se il Comitato Internazionale Olimpico non molla. Il presidente americano Trump però propone il rinvio di un anno. Intanto c'è un giocatore positivo al coronavirus che provoca lo stop dell'NBA, della pallacanestro americana, mentre il team McLaren non parteciperà al Gran Premio d'Australia, gara di apertura dei mondiale di Formula 1, avendo avuto la conferma di una positività al coronavirus di un componente dello staff. Anche l'attaccante della Sampdoria, Gabbiadini, è risultato positivo. Il giocatore ha qualche linea di febbre, ma sta bene. Insomma, ovviamente questa emergenza travolge un po' tutti gli ambiti della nostra vita. Ci fermiamo molto brevemente, giusto per aggiornare chi sta viaggiando, ma poi io sono qui per voi, Roberta Giordano, e dobbiamo approfondire diversi argomenti. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre, lo sapete ormai da lungo tempo, ricchi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, di approfondimenti con gli ospiti, dei vostri commenti sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 e in particolare poi in questo frangente così difficile per tutti, in particolare per chi sta male naturalmente, in particolare per gli operatori sanitari che sono sempre in prima linea sul fronte. E per tanti che magari stanno male non per forza per il Covid-19, che avrebbero bisogno di cure anche loro, ma questa è l'emergenza. E anche, vi dico, difficile per chi deve informare, sia per dover correre ogni istante dietro ogni aggiornamento, a volte magari ci si mettono anche dei problemi tecnici, non vi dico, durante la giornata, e poi anche per cercare di riuscire a mantenere sempre un equilibrio tra il fatto di dare un'informazione che non sia ansiogena e dall'altra parte però naturalmente dare un chiaro segnale che non c'è nulla da sottovalutare, anzi. Poi qui a Effetto Notte avete sentito un sacco di virologi che hanno parlato dell'epidemia, ora pandemia di coronavirus, e poi tanti altri ospiti. Adesso però comincerei anche con la nostra Stefania Arcudi di Radiocor. Ciao Stefania. Buonasera. Comincerei col parlare della reazione, direi abbastanza, forse usare il termine disastrosa, magari eccessivo, però diciamo che i mercati non stanno per niente reagendo bene, né in Europa né anche Wall Street, no Stefania? No, invece in realtà disastrosa è proprio la parola esagerata. Perché purtroppo per Piazza Affari quella di oggi è stata la giornata peggiore di sempre. Il FTSE MIB ha perso il 17%, non era andata così male neanche dopo il crack di Lehman Brothers, quando Piazza Affari aveva perso circa l'8%, dopo l'11 settembre quando aveva perso il 7,5%, dopo la Brexit quando aveva perso il 12,5%, quindi insomma una giornata da dimenticare anche, come dicevi tu e come accennavi prima, anche nel resto dell'Europa. Parigi e Francoforte hanno perso tutte e due più del 12%, Londra il 10%, Madrid lo stesso. I cali sono stati generalizzati in tutti i settori, le più penalizzate, le banche, gli energetici, eccetera. Ma cosa è successo? La seduta già era partita molto male perché, appunto, come ricordavi prima, Trump ha deciso di bloccare tutti i voli dall'Europa, sì, per l'emergenza coronavirus. Il petrolio era già in forte calo, sopra il 7%, ricordiamo che nei giorni scorsi era arrivato a perdere oltre il 30% su timori sulla domanda, e poi appunto la pandemia, l'OMS che ha finalmente decretato il fatto, esatto, che si tratta una pandemia. Il colpo di grazia, diciamo così, l'ha dato la BCE, anziché dare una mano, in realtà ha scatenato il panico, perché ha annunciato una serie di misure, ma che non sono state giudicate sufficienti dai mercati. Non ha tagliato i tassi, il cui quantitative easing è stato aumentato di 120 miliardi entro la fine dell'anno, ma i mercati si aspettavano qualcosa di più, ad esempio un valore tra i 20 e i 40 miliardi al mese, quindi complessivamente una cifra più alta. E quindi il timore è un po' in generale che anche le banche centrali, oltre che le istituzioni europee, non abbiano misure sufficienti, non abbiano munizioni sufficienti per far fronte alla crisi. Dimostrazione è il fatto che anche negli Stati Uniti, dove Wall Street sta perdendo il 10%, come ricordavi, il giorno peggiore dal 1987, la Federal Reserve è intervenuta, ha detto che metterà sul mercato 1.500 miliardi per sostenere il sistema monetario. Wall Street inizialmente aveva reagito bene, quasi azzerando i cali, poi come abbiamo visto ha aumentato di nuovo, quindi insomma non bene, e non si prevede soprattutto che vada molto meglio, perché la volatilità resta comunque molto alta. Chiaro, purtroppo. Grazie Stefania Arcudi di Radio Core, buon lavoro. Ciao Stefania. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, ciao, grazie. E intanto poi l'avete sentito, l'ho raccontato, anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato il suo messaggio all'Europa, dice: in un momento difficile l'Italia attende solidarietà, non ostacoli. E ieri vi ho fatto sentire, qui a Effetto Notte, proprio appena iniziava, come è successo anche lunedì, il videomessaggio di Conte alla Nazione, in cui, dopo aver preso come governo dal fine settimana fino a lunedì decisioni sempre più restrittive su tutto il territorio nazionale, su richiesta, su pressione del Presidente della Regione Lombardia, ma non solo, anche di altri presidenti di regione leghisti, dell'opposizione, ma anche di alcuni amministratori del centrosinistra, ieri ha annunciato misure ancora più drastiche. Vi faccio risentire giusto due passaggi di Conte. In questo momento tutto il mondo ci guarda, Certamente ci guardano per i numeri del contagio, vedono un paese che è in difficoltà, ma ci apprezzano anche perché stiamo dando prova di grande rigore, di grande resistenza. Domani non solo ci guarderanno ancora e ci ammireranno, ci prenderanno come esempio positivo di un paese che grazie al proprio senso di comunità è riuscito a vincere la sua battaglia contro questa pandemia. Siamo, lo ricordo, il paese che per primi in Europa è stato colpito più duramente dal coronavirus. Siamo anche quelli però che stanno reagendo con maggior forza, con la massima precauzione, diventando giorno dopo giorno un modello anche per tutti gli altri. E in effetti le cose si stanno purtroppo ripetendo anche in altri paesi europei, poi ci collegheremo sia con la Francia sia con la Spagna, poi anche alla fine con gli Stati Uniti, però vorrei farti sentire ancora sempre un passaggio di ieri del videomessaggio di Conte. L'Italia rimarrà sempre una zona unica, l'Italia protetta, ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti, lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Allora, saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera a tutti. Quindi questi giusto due passaggi di tutta la conferenza stampa che ho fatto sentire ieri qui a Effetto Notte. Però prima di parlare del fatto che in realtà il Presidente della Regione Fontana dice sì, va bene questo decreto, però ci sono delle discrasie, vanno chiarite alcune cose, siamo in dialogo comunque con il Governo, poi tornato alla carica oggi il leader della Lega Salvini. Ma prima di questo, diciamo a proposito dell'Europa, sembra che Bruxelles vada verso un'apertura comunque allo stop al patto di stabilità, quindi cerca, insomma, sta anche se in ritardo, decidendo delle misure per sostenere l'impatto economico fortissimo che stiamo avendo. Allora, guarda, Roberta, la cosa è questa: il patto di stabilità di fatto è già sospeso, perché nel momento in cui l'Italia viene autorizzata a un deficit, no? Superiore per circa 20 miliardi, che poi diventano 25 di spesa, vuol dire che noi siamo al 3% o addirittura oltre il 3%, quindi di fatto quelli che erano i vincoli di Maastricht già sono stati superati, quindi è già nei fatti, questo voglio dire, che c'è questa sospensione. Ovviamente è molto importante se nei prossimi giorni, in questo weekend, la Commissione europea dovesse, come dire, prendere una posizione invece ufficiale sulla sospensione del patto, anche perché è evidente che, come dire, noi siamo l'abbiamo definita, no, l'avamposto, l'Italia è l'avamposto, ma stiamo vedendo quello che sta avvenendo in Francia e in Germania e anche in Spagna, adesso anche in Spagna è una situazione difficile. Ma sappiamo che, come dire, la politica rigorista è quella dei tedeschi solitamente, no? Ecco, quindi in questo momento ci troviamo tutti sulla stessa barca, anche se in condizioni diverse, perché comunque chiaramente per quanto riguardano i conti pubblici, quelli tedeschi sono ben diversi dai noi, certo, dai nostri. Però non c'è dubbio che a questo punto, dopo anche le parole della presidente Ursula von der Leyen di ieri, no, che ha fatto questo messaggio in molto, italiano, molto apprezzabile in italiano, di solidarietà forte, sì, adesso dopo questa italiano. Solidarietà ci aspettiamo dei fatti, certo. E i fatti siano che la Commissione europea, che l'Europa metta un vero e proprio bazooka, no, che possa contrastare anche le speculazioni finanziarie che, come abbiamo visto oggi, stanno attaccando tutte le borse europee e anche quella statunitense, ma in particolare Piazza Affari, come al Milano. Solito sempre in agguato. Barbara, sì. Però tornando al discorso invece più, diciamo, legato al dibattito politico italiano, allora dicevamo per l'appunto ieri, abbiamo fatto sentire Conte, Fontana dice che ci sono alcune discrasie sul decreto deciso dal governo, ma che c'è un dialogo, e poi oggi sentiamo che cosa ha detto invece il leader della Lega Salvini a 24 mattino qui a Radio 24. Noi oggi faremo altre proposte sul testo del decreto, perché serve secondo noi più rigore, più fermezza, più coraggio, invece di mandarle nelle carceri darei prima ai poliziotti e ai carabinieri le mascherine, questo farei. E poi questo ha detto in una giornata in cui è emerso un altro problema, almeno qui in Italia, cioè che i lavoratori, operai di imprese, di industrie hanno minacciato dei scioperi, qualcuno ha indetto proprio invece degli scioperi nelle fabbriche del nord, coi quali protestando chiedono che vengano chiuse fabbriche e imprese nell'Italia del nord. Allora sentiamo a questo proposito che cosa ha detto Salvini. Cosa ci chiedono i medici? Chiudete tutto quello che non è di salvezza nazionale, che non è irrinunciabile. Ovviamente la gente deve mangiare, deve curarsi, deve andare a comprare i farmaci, però tutto il resto chiudetelo, quello che non è strategico per il paese, fabbriche, negozi, artigiani, per il bene della salute pubblica. Poi leggi e possono rimanere aperti ferramenta, lavanderie, profumerie, tabaccherie. Nel mondo industriale è tutto aperto e ci sono giustamente gli operai in rivolta che dicono: ma noi siamo cittadini di serie B. La profumeria o la lavanderia o la tabaccheria non mi sembrano strategiche, con tutto il rispetto per gli straordinari lavoratori di questi settori. Allora, fra i vari che hanno risposto, Toninelli del Movimento 5 Stelle a Salvini. Dopo che abbiamo ascoltato Salvini per settimane dire che per combattere il coronavirus servivano, prima ha detto 10, poi 20, poi 30, poi 50, poi 70 miliardi. Dopo che l'abbiamo ascoltato dire prima bisogna aprire tutto, negozi, imprese, tutto, bisogna aprire tutto e poi dire bisogna chiudere tutto, oggi dobbiamo pure sopportare di ascoltare la sua polemica con Conte perché lo attacca in quanto non avrebbe inserito nel nuovo decreto che limita ulteriormente, che impone dei nuovi limiti, ad esempio l'apertura dei negozi, in questi negozi non ci sono i tabaccai. Ma Salvini sa che i tabaccai assolvono anche funzioni importanti, le marche da bollo, il bollo auto, vendono i biglietti del pullman, del tram, della metropolitana, magari lui non lo sa perché lo porta in giro la scorta, mi dicono di due macchine nonostante non sia più ministro. Quindi Barbara riprende la polemica politica, ma nel frattempo effettivamente c'è questa questione, no? Sindacati che dicono vanno protetti anche i lavoratori delle imprese, delle industrie, eccetera. Conte domani abbiamo detto che affronterà in videoconferenza sia i sindacati che gli industriali, e c'è il ministro Boccia per gli affari regionali che dice non si può però chiudere tutto. Qualcuno ha detto, secondo me anche facendo una valutazione superficiale, bisogna chiudere tutto. Non si può chiudere tutto, perché se si chiude tutto si ferma l'intero paese, si spegne la luce, se si spegne la luce c'è il buio, e noi abbiamo bisogno di rafforzare la sanità italiana e far arrivare il cibo nelle case degli italiani. Per far questo alcune filiere devono funzionare. E poi ha detto noi tuteliamo tutti i lavoratori, è importante stabilire che ci sia assolutamente il protocollo di sicurezza. Poi oggi è intervenuto però anche Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, che dice di fronte all'emergenza coronavirus la decisione di proclamare gli scioperi irresponsabile, gradiremmo che tutta la società si facesse carico di queste problematiche. Quindi insomma le questioni diventano tante, no Barbara? È una situazione complessa e complicata. È chiaro che dalla parte dei i lavoratori hanno diritto di poter lavorare in sicurezza, certo, e quindi che siano adottate tutte quelle misure per garantire appunto la non contaminazione per quanto sia possibile, poi per ciascuno di noi avere questa garanzia, perché in realtà non ce l'ha nessuno. Però non c'è dubbio che se si continua a frequentare un ambiente diciamo promiscuo, per quanto a distanza e per quanto magari con le mascherine, il rischio contagio è più facile che dentro la propria casa, questo non c'è dubbio. Però è anche vero quello che dice il governo, cioè se si fermano certe filiere, cioè pensiamo solo a quello che può accadere sui rifornimenti, cioè tanto per essere chiari. Quindi già ci sono grossissimi problemi, per esempio nell'agroalimentare, perché faccio un esempio, ci sono problemi sulla raccolta della frutta e della verdura in Emilia Romagna, perché gli stagionali erano prevalentemente persone che venivano dai paesi dell'est Europa e non vengono più. E quindi bisogna chi raccoglie questa frutta, e quindi il rischio poi che domani abbiamo meno frutta e che i prezzi possano magari salire è reale. Cioè, però Barbara, tutta tra una l'altro, serie di conseguenze, certo, poi non che è bisogna che, valutare che di cui bisogna tener conto quando poi si prendono delle decisioni. Non c'è dubbio comunque che la stretta, per quanto non una stretta totale, presa ieri dal governo dei delle, come dire, nei comportamenti, secondo me ha degli effetti significativi, perché poi nel momento in cui tu chiudi quasi tutti gli esercizi, è vero che rimangono aperti il ferramenta piuttosto che il tabaccaio, ma insomma non è che vediamo le file davanti, le file al ferramenta, ecco, per avere un chiodo del tabaccaio, però le vediamo davanti ai supermercati, forse anche lì bisognerebbe ma ho già visto che qui a Milano, io ho tentato di andare a fare la spesa questa mattina, ma erano in fila anche davanti a un famoso supermercato, una famosa catena, alla fine basta, mi sono arresa, sono tornata indietro. C'è Harry che dice: Roby, ho sentito Codacons che dice che non è obbligatoria l'autodichiarazione per andare in giro, ne sai qualcosa, io la trovo liberticida e folle. In realtà no, secondo le regole ci voglia l'autodichiarazione, e se voi non l'avete in mano ve la fa lo stesso funzionario di polizia, la persona che fa parte delle forze dell'ordine, ve lo fa lì al momento, però in questo momento così particolare è necessaria, e lo diceva ieri lo stesso Conte, che per carità dobbiamo sacrificare alcune nostre libertà in questo momento, ma serve per il bene di tutti, cerchiamo di fare qualche sacrificio, insomma. La situazione è questa, c'è poco da dire, non vogliamo chiudere tutto perché appunto se no si fermerebbe, l'Italia si affosserebbe, però qualcosa bisogna fare. Se non mi sbaglio, Barbara, lo stesso Walter Ricciardi, appunto superconsulente del governo e facente parte dell'OMS, mi pare che lui stesso avesse detto: non possiamo paragonarci però a una Wuhan, a un Hubei, la provincia cinese che era stata completamente chiusa, perché intorno c'era tutta la Cina però che continuava a produrre, certo, a lavorare, eccetera. I loro 60 milioni Hubei è grande, una piccola grande come l'Italia, di una popolazione che ha centinaia e centinaia di milioni, cioè che è oltre il miliardo che di continuava persone. Bene, Barbara, io direi al momento ci fermiamo qui, vediamo come procede anche il dibattito politico, se l'Europa ci dà davvero una mano, che adesso deve dare una mano un po' a tutta se stessa praticamente, perché altrimenti qui le cose vanno molto male, non solo da un punto di vista sanitario. Grazie cara Barbara Fiammeri. Barbara, un momento, volevo dirti che allora questa cosa che avevo lanciato della poetessa bresciana Andrà tutto bene, oggi la sindaca Raggi a Roma l'ha messo sul Campidoglio, un grande striscione, mentre a Milano continua anche qui questa cosa un po' virale, ma nel senso è positivo. A proposito di messaggi positivi, chiedono degli studenti di gridare dai balconi di Milano, come fu a Wuhan: Milano tornerà. Vuoi gridarlo in milanese magari, Barbara, tu che sei romana? In milanese no, però posso gridarlo in italiano. Va bene, gridalo. Milano tornerà, e sono sicura. Grazie Barbara Fiammeri e tutta l'Italia, un bacio a Barbara, naturalmente non contagioso, ci sentiamo presto, ciao Barbara, buona serata. E adesso abbiamo una pausa di riflessione e di sospensione, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Note, siete al posto giusto, nel momento giusto, a casa, che è il posto giusto naturalmente, oltre a quello qui in Radio 24, Roberta Giordano sempre con voi, nonostante tutto, qui a informarvi, a fare in modo che questo sia il vostro appuntamento serale immancabile a fine giornata, in modo che possiate sapere tutto quello che è necessario, però è anche il programma anti-ansia, consapevoli, informati, ma non ansiogeni. Allora, abbiamo parlato molto della situazione italiana, abbiamo parlato anche delle Europa, dell'atteggiamento che in questo momento l'Europa e la stessa Bruxelles, la Banca Centrale Europea, però adesso colleghiamoci anche con alcuni paesi, a cominciare dalla Francia, perché poco fa, praticamente un'oretta fa, neanche, il presidente francese Macron ha tenuto un discorso alla nazione, ha detto delle cose importanti, ha detto che si tratta di un'epidemia che la Francia non conosceva da 100 anni a questa parte. Ci colleghiamo con Parigi con il nostro Danilo Ceccarelli. Danilo. Buonasera a tutti. Ciao Danilo, quindi intanto scuole chiuse, università chiuse da domani, no? Ha preso anche Macron questa decisione. Esattamente, un discorso di circa mezz'ora pronunciato in diretta dall'Eliseo, molto molto atteso dai francesi che aspettavano queste misure e anche raccomandazioni, perché oltre ad annunciare la chiusura delle scuole e degli aiuti alle aziende che saranno costrette a lasciare a casa i dipendenti che dovranno lavorare adottando questo metodo dello smart working, Macron si è raccomandato ai francesi di rimanere a casa, soprattutto agli over 70, alle persone più malate, alle persone malate, più deboli. La priorità è la salute, ha detto Macron, questo lo ha ribadito più volte, e poi ha fatto appello all'unità nazionale, ha detto di contare sui francesi nel rispetto delle raccomandazioni che verranno date anche nei prossimi giorni, più in dettaglio dal Ministero della Salute. Ricordo che intanto il bollettino diventa sempre più pesante, secondo quanto annunciato dal Ministero della Salute pochi minuti prima dell'intervento di Macron. Il numero di contagi in Francia è salito a 2.876 casi, di cui 129 in rianimazione, mentre i morti sono 61. Quindi la Francia, come ha detto anche, cito testualmente Macron, è all'inizio di questa epidemia. Inizio che significa che appunto è partita l'epidemia e poi naturalmente ci sarà questa onda crescente, purtroppo l'Italia ha iniziato prima ma adesso si sta diffondendo anche negli altri paesi. Danilo, so che hai moltissimo da fare, anche tu naturalmente stai lavorando, quindi se non vuoi aggiungere nient'altro mi sembra che il quadro sia questo, insomma il discorso tanto atteso di Macron e poi comunque questo bilancio che anche in Francia sta cominciando a prendere quota, no? Sì, sottolineo che non c'è stato ufficialmente questo passaggio al terzo stadio che era atteso, quando il terzo stadio è previsto quando il virus comincia a circolare su tutto il territorio. Macron, ricordo quest'ultima cosa, ha confermato durante il suo discorso la tenuta delle elezioni municipali che si terranno due turni, questa domenica e la prossima. Ovviamente, come ho già detto più volte, è ovvio che saranno segnate da una forte astensione. Chiaro, appunto, probabilmente anche abbiamo trovato strano dall'Italia che fossero confermate queste elezioni, visto che anche noi il taglio dei parlamentari, il referendum e chissà poi le elezioni amministrative se ci saranno o no. Per ora quindi Macron ha annunciato che ci saranno. Grazie intanto a Danilo Ceccarelli, buon lavoro da Parigi. Ciao. Grazie Danilo. A voi, buonasera. Ciao. Intanto c'è Jacopo che mi dice di insistere sul dato dei morti italiani, ci sono mille morti, dobbiamo dirlo, l'ho detto, purtroppo è un dato terribile, questo ci dà ancora più il senso della responsabilità che ha ognuno di noi verso se stesso e soprattutto verso la collettività. E poi c'era un ascoltatore ieri fra i tanti che scriveva da Madrid, un italiano, che mi diceva: ma noi qui dalla Spagna non riusciamo veramente dai media a capire qual è la situazione, siamo preoccupati, vorremmo quasi ritornare in Italia. Allora c'è l'editorialista col quale ci colleghiamo adesso con la Spagna, Jorge Marí Rodríguez del El País, del quotidiano El País. Buonasera Jorge e grazie della disponibilità. Grazie Roberta, buonasera. Jorge, ecco, lo pronuncio meglio, Jorge. Giorgio, puoi dire Giorgio. Giorgio, posso dire Giorgio. Grazie, sei molto gentile. Allora, per quanto riguarda la Spagna, qual è la situazione in questo momento, Giorgio? In questo momento la situazione sarebbe un po' come l'Italia prima del blocco totale, cioè c'è una grande preoccupazione tra le autorità, ma forse questa preoccupazione non è stata trasmessa completamente alla società. Oggi si è annunciato la chiusura dei centri educativi, scuole, università, ma questo è stato fatto, diciamo, in una maniera parziale durante i giorni scorsi. Ma ancora si parla di altre misure più forti, come quelle che voi avete in Italia, fino al blocco totale, ma ancora questo è sotto discussione. Oggi il Presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sánchez, ha parlato, ha annunciato delle misure economiche, ha parlato più di economia che di misure concrete sulle vite delle persone, ha fatto un appello al senso comune, ma le autorità sanitarie hanno ricordato che questa chiusura delle scuole non significa che i ragazzi vanno in vacanza anticipate di Pasqua, ma che devono restare a casa. E forse questo messaggio non è ancora calato nella società spagnola. E questo lo sappiamo e lo sai anche tu da comunicatore, informatore, che è un grandissimo rischio, perché lo abbiamo visto che cosa significa prenderlo sotto gamba proprio da parte dei privati cittadini, no? Jorge, diventa veramente un effetto domino poi. Certamente, perché soprattutto all'inizio forse l'effetto è il contrario di quello che si cerca, cioè si espande di più, chiudono le università, tutti gli studenti ritornano a casa, quindi il rischio di contagio è maggiore. Noi, il governo regionale di Madrid, ad esempio, ha detto che le prossime tre settimane saranno durissime, Noi adesso in Spagna abbiamo, i numeri sono più o meno 1000 contagiati e 83 morti, ma questi numeri sicuramente nei prossimi giorni saranno molto molto maggiori. Destinate ad aumentare, insomma, purtroppo ci troviamo tutti in questa situazione terribile. Grazie intanto Jorge Marie Rodriga, del ricordo editorialista del Paese, grazie per il tuo lavoro e magari ci sentiamo presto, Jorge. Grazie. Grazie a voi, Roberta, buona serata. Grazie, ciao. Buon lavoro, un abbraccio. E c'è la viabilità adesso. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie, Roberta Giordano che è sempre sempre con voi, 349-238-6666, il numero per i vostri sms e whatsapp, oppure c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte. Ruggero da Padova per esempio scrive: ma si può sapere quanti sono stati morti nello stesso periodo degli anni 2019, 2018, 2017? I dati che comunica la Protezione Civile sono al netto dei morti degli altri anni. Ancora Ruggero, non ha capito, caro Ruggero, l'hanno detto tutti i virologi qui e ultimamente anche il professor Massimo Galli, uno dei massimi virologi italiani, che lui in tutta la sua carriera, ed è una persona che ha una certa età, credo sopra i 70 anni, dice mai ha visto una cosa di questo genere. Cioè, quante volte ancora devono ripeterlo gli esperti che hanno magari anche una certa età e quindi anche una lunga esperienza in questo campo, di dire che qui non c'è nulla da sottovalutare, non c'entra niente con anche l'ha detto il professor Ippolito, sempre, che è stato anche lui qui Effetto Notte, dello Spallanzani di Roma, uno dei centri di eccellenza per la virologia, per le malattie infettive in Italia. Basta paragonare questa epidemia, questa pandemia all'influenza, no, perché non c'entra niente. Quindi smettiamola col cercare sempre di dire ma tutto sommato, perché altrimenti si va sempre peggio, questo, su questo potete giurarci. E poi invece dice Walter a proposito del telelavoro: ma come controllano le presenze col telelavoro rispetto a quelli che invece timbrano in azienda? Allora, per esempio, per quanto riguarda, che so, i miei colleghi giornalisti che fanno i giornali radio, scrivono i pezzi da casa, quindi si capisce che arrivano. Altri so che comunque sono in costante comunicazione con l'azienda, che gli dà un tot di lavoro da fare, poi quel lavoro a fine giornata sarà stato prodotto e quindi da lì si capisce. Poi se ci sono altri, non lo so, che da cui non si riesce a vincere se hanno lavorato o no, non ne ho idea. Però insomma, il telelavoro in questo momento è una risorsa molto importante. Risorsa molto importante anche il nostro Riccardo Barlam dagli Stati Uniti, da New York. Ciao Riccardo, vedo tra l'altro che New York ha dichiarato lo stato di emergenza poco fa. Sì, lo stato di New York aveva già dichiarato lo stato di emergenza qualche giorno fa, adesso anche la città. Oggi sono state spente le luci a Broadway, il quartiere lì a Times Square dei teatri, chiusi tutti i teatri e c'è un'atmosfera da day after, la gente lavora da casa, Wall Street dove sono io, ci sono stati anche tre casi nelle banche americane e c'è un'atmosfera irreale, Riccardo, come dicono. Tra l'altro, allora, sì, anche sì, qui a Milano, anche qua nelle città italiane nel nord. Riccardo, però, allora c'è sempre questo atteggiamento molto contraddittorio del presidente americano Trump. Nei giorni scorsi diceva che i dati dell'OMS erano falsi, ha detto, ho parlato con alcune persone che hanno esperienza e mi hanno detto che non è nulla di tutta questa gravità. Oggi ha detto al primo ministro irlandese, se non sbaglio, sì, dice va irlandese, tutto bene, sì, da noi stiamo benone perché abbiamo solo 32 casi, poi però blocca i voli verso l'Europa e dall'Europa e anche i voli interni, quindi come stanno le cose, Riccardo? Ma le cose sono, è una bomba che sta ad orologeria che è pronta ad esplodere. Pensate che oggi ha parlato al congresso un signore che si chiama Anthony Fauci, che è il direttore dell'Istituto Nazionale che cura, che segue le malattie infettive, e lui ha detto che il sistema, diciamo, dei test per controllare chi è malato nel caso o no, è un sistema fallimentare. Le sue parole, l'idea che ognuno possa fare i test come gli altri paesi non è possibile, ci stiamo lavorando. E i numeri parlano, perché pensate, due giorni fa, il 10 marzo, se qualcuno vuole andare sul sito della CDC, l'agenzia federale che segue l'epidemia, in tutti gli Stati Uniti sono stati fatti solo 10 test. effettuati in tutti gli Stati Uniti il 10 marzo. E per fare il test ci vuole la prescrizione del medico, che deve valutare se il paziente risponde a dei criteri stabiliti dall'agenzia governativa, e finora negli Stati Uniti sono stati fatti solo 11.000 test su una popolazione di 330 milioni di abitanti. Il dato è molto basso, considerate che in Corea vengono fatti 10.000 test al giorno, insomma. No, ma la barzelletta, Riccardo, la barzelletta è che oggi Trump avrebbe anche accusato l'Europa di aver agito troppo lentamente. Io non lo so con che faccia, Ma in realtà io ho amici che lavorano qui negli Stati Uniti, italiani, che sono stati a fare la settimana bianca, bontà loro, sulle Alpi qualche settimana fa, e loro mi hanno raccontato, abbastanza inorriditi, che quando sono arrivati in Italia avevano tutti i controlli, sono stati tutti controllati negli aeroporti, rientrati negli Stati Uniti, questo 10 giorni fa, mi raccontava un amico, nessun controllo, quindi si arrivava liberamente a tutti i posti dell'Europa. Blocca i voli. Riccardo, c'è Dario Ricci che già mi ha raggiunto dopo per parlare di sport, che vuol farti una domanda. Ma sì, Riccardo, ciao. Senti, una piccola provocazione, ma credo che visto il soggetto non sia neanche troppo azzardata. Ma non è che l'imbeccata per una piccola svolta a Trump è arrivata dall'NBA, perché il più grande business sportivo mondiale, nel giro di una manciata di ore, a fronte della positività di un giocatore degli Utah Jazz, tra l'altro francese, ha chiuso baracca e burattini e chiuso la stagione. Ecco, quando un business di quel livello nel giro di poche ore chiude in quel modo, forse anche il più distratto essere distratto. Il presidente Trump, diciamo così, forse ha capito che era una cosa seria. Che dici, Riccardo? Ma lui sta cercando di seminare ottimismo, la realtà è molto diversa e qui sarà peggio l'Italia, temo. E oggi non ve lo auguriamo anche... e speriamo di no, però no, certo è assolutamente irresponsabile questo atteggiamento. Non è come quello europeo e quindi non saprei come fare, perché gli ospedali non sono come quelli che abbiamo a Milano in Italia. E vi dico che oggi ha parlato anche Joe Biden, che è il frontrunner democratico in questo momento per la corsa alle elezioni, e lui ha parlato da leader già in pectore degli Stati Uniti, sta sfruttando quest'onda di malcontento su quello che non sta facendo l'amministrazione Trump, e ha detto, intanto lo ha criticato perché lui ha parlato di un virus straniero, un virus che arriva dall'estero, come se fosse... La Cina invece sta dicendo che sono i soldati americani che l'hanno portato in Cina, vedevo qualcuno dice anche questo, e poi Biden ha detto voi dell'amministrazione dovreste guidare il mondo come abbiamo fatto all'epoca per la crisi di Ebola, e invece quello che manca in questa crisi è la politica multilaterale, perché ognuno fa da sé. E c'è stata una settimana fa una conference call dei ministri finanziari del G7 e dei governatori di Banca Centrale, si sono lasciati con l'impegno a monitorare la situazione, quindi una promessa ma niente di fatto. Fed si muove da sola, la Banca d'Inghilterra si muove da sola, quello che manca in questo momento, nel momento appunto in cui va di moda questo discorso dell'America first, di pensare prima ai fatti nostri, è lo sguardo globale, che in una pandemia globale, come dire, forse sarebbe il modo migliore per affrontarla. Grazie, esatto. Riccardo Barla, mi raccomando, prenditi cura della tua salute, ci teniamo, Riccardo. Siamo tutti a casa. Mi raccomando. Se no ti riportiamo subito qua. Ciao Riccardo. Ciao, da New York. Ciao a tutti. Grazie Riccardo. Ah, c'è un'ascoltatrice che dice: Roberta, per il telelavoro, quando ti connetti, a proposito della domanda di un ascoltatore, o stacchi, vieni registrato nel tuo PC che ha anche la geolocalizzazione. Infatti, ha risposto, sì, Dario, lo sappiamo. Allora Dario, invece, per quanto riguarda lo sport, citavi l'NBA, ma man mano, no, sia in Italia, all'estero, a livello europeo, che sia il calcio femminile, maschile, le gare di tutti i tipi, lo sci, il tennis, tutto sta... Sì, tutto sta saltando, ma diciamo, ritorno sul caso NBA... Sì, perché poi è stato rinviato anche per la positività di alcuni membri, insomma, delle squadre e anche dell'organizzazione. Il Gran Premio di Melbourne, che avrebbe dovuto aprire la stagione della Formula 1, ma di fatto quello che sta arrivando all'orizzonte è lo spostamento e il rinvio almeno dei due grandi eventi di quest'anno, i più attesi, gli europei di calcio e poi conseguentemente le Olimpiadi di Tokyo. È stato proprio lo stesso Trump a ipotizzare di questo rinviarli rinvio di un anno, sì, no? Anche perché, ed è tutta una catena, no, di fatti, perché se l'NBA, come ha fatto, ha chiuso la sua stagione, i grandi campioni del basket probabilmente cercherà di finirla più avanti, allora non andranno alle Olimpiadi e quindi tutto si deve spostare. Un'Olimpiadi senza i grandi campioni dello sport americano perde di interesse per i network televisivi, che sono quelli che foraggiano sia il CIO sia l'organizzatore, certo, l'organizzazione. Quindi tutto collegato, insomma, tutto interconnesso. È tutto collegato. La data che seguiremo con attenzione, che già segniamo sul calendario della prossima settimana, è martedì 17 marzo, St. Patrick Day, tanto per le cronache, ma c'è poco da festeggiare in Irlanda e nel mondo. L'Europa del calcio, la UEFA, ha chiamato a riunione tutte le sue rappresentanze, le leghe, le federazioni, il board dell'ECA, dell'associazione dei club, il sindacato dei calciatori, per decidere di fatto quello che sarà il proseguo delle coppe europee, quindi anche dei campionati nazionali, e soprattutto eventualmente lo spostamento, a questo punto ragion veduta direi sempre più probabile, di Euro 2020, che lo ricordo dovrebbe partire il 12 giugno proprio a Roma con Italia-Turchia. Quindi... Tra l'altro ieri stavano cercando in questi giorni di riportare indietro la nazionale di calcio femminile invece dal Portogallo. È riuscita a rientrare, finalmente. Assolutamente, ma chiaramente tutto diventa più complicato. Nel paradosso che poi stasera si stanno giocando, alcune a porte chiuse, altre a porta aperte, le gare dell'andata degli ottavi dell'Europa League, perché nel frattempo l'Europa, assumendosi dei rischi, ha deciso però di andare il più possibile avanti con le coppe per poi poterci ragionare su. Insomma, è veramente... Quindi anche lo sport è stravolto. Insomma, è stravolto, non so che decisione prendere, un po' lento anche in questo, però da, diciamo, il segnale di tutto questo, quello che è successo appunto stamattina della fiaccola olimpica per i giochi di Tokyo 2020, che è stata accesa così nel È stata silenzio, accesa Olimpia, ebbe anche la fortuna di vederla una volta nel 2012 verso Londra. Poi 2012. Anche il tuo programma. Già, è vero, me l'ero quasi dimenticato, Olimpia, che il virus ti fa perdere la memoria. Intanto no? L'understatement che me l'ho dimenticato pure il nome del mio programma. Domenica alle 16:30. Domenica magari non veniva neanche a trasmettere, se l'ha dimenticato. Tra l'altro con l'occasione, visto che siamo tra amici, parleremo col professor Tirelli proprio di come corpo e mente ci possono aiutare in questo momento a far fronte a questa emergenza. No? Faccelo sapere anche psicologicamente. Assolutamente, alle 16:30 lo potete sentire domenica. Poi c'è il podcast, quindi meglio di così. Tanti suggerimenti utili, penso con un paio di bottiglie d'acqua da 1,5 litri facciamo anche un po' i pesetti in casa. Bisogna mantenere le toniche, qui è una guerra e quindi bisogna essere forti. Grazie Dario Ricci, grazie caro Dario, noi ci aggiorniamo brevemente alle 22.